Se ti svegli un po' delusa, se il mondo non ti ha chiesto scusa, mi va che ci sei. Se la vita passa in fretta e non ti ha dato proprio retta, mi va che ci sei. E per quando tu rientravi alle sei, altrimenti si arrabbiavano i tuoi, per le scuse che inventavi, per quel bacio che mi va che ci sei. Se ti trucchi per uscire, se gli anni tuoi non vuoi mai dire, mi va che ci sei. Se i tuoi jeans sono troppo stretti, ti fa scoppiare ma te li metti, mi va che ci sei. E se inventi una bugia tra di noi, e se il torto è sempre mio, lo sai, puoi scavare nel mio cuore, lì c'è scritto che mi va che ci sei. Occasioni a non finire, quante volte mi han trovato puntuale, poi stavo male. Ho giurato sempre amore, sempre ho dato quel che avevo da dare, da dire, da fare, da avere, ma te non riuscivo a scordare. Se hai capelli troppo corti, se tu difetti ce ne hai tanti, mi va che ci sei. Se ogni cosa che ti piace, finché non hai non ti dai pace, mi va che ci sei. E poi quando fai l'amore con me, o ti bruci preparando il caffè, perché mi somigli un poco, tu compagna mia, mi va che ci sei. Somigli un poco, tu compagna mia mi va che ci sei. Perché mi somigli un poco.